La politica alla prova. Da Alessandra Schepisi, nuovo appuntamento con la politica alla prova, titolo oggi quanto mai eloquente visto che si apre una settimana importante, per non dire decisiva, per il governo Letta, settimana in cui le scadenze economiche si intrecciano inevitabilmente con i processi di Silvio Berlusconi. Intanto il numero per i vostri sms 349-238-6666, e dunque, come sapete, c'è grande attesa oggi per la sentenza Ruby in un processo che vede imputato il leader del PDL per concussione e prostituzione minorile. Un verdetto che non potrà non avere ripercussioni sul governo, nonostante il Cavaliere abbia finora voluto tenere separati i due piani, escludendo che possano esserci contraccolpi sull'esecutivo, almeno ufficialmente. E poi sempre oggi, anzi a minuti, dovrebbe cominciare il faccia a faccia tra Letta e il ministro delle pari opportunità Josefa Idem, finita sotto accusa per presunti abusi edilizi e per il mancato pagamento dell'ICI e dell'IMU della sua casa palestra. Dunque una giornata in cui si deciderà di fatto sulla sua permanenza al governo, e diteci anche su questo la vostra opinione. Poi il capitolo economico: Letta, dopo aver visto questa mattina i sindacati, incontrerà questa sera Mario Monti, domattina il segretario del PD Epifani, domani sera Berlusconi, un giro di consultazioni in vista del Consiglio dei Ministri di mercoledì su IVA e lavoro e del Consiglio europeo sulla disoccupazione di venerdì. Dunque calendario davvero molto fitto per Enrico Letta, ma è soprattutto il tema dell'IVA a tenere banco, a creare tensioni all'interno del governo e della maggioranza. Ricordiamo che dal 1 luglio l'aliquota passerà dal 21 al 22% in mancanza di un intervento dell'esecutivo. L'orientamento è però quello di un rinvio di 3 o 6 mesi. Tecnici del Ministero avrebbero trovato 1 miliardo di euro per questa operazione, ma intanto il PDL continua a fare la voce grossa, considera la questione essenziale per la sopravvivenza del governo. E su questo abbiamo sentito poco fa Daniele Capezzone, presidente della Commissione Finanze della Camera e deputato del PDL. Sappiamo che dal 1 luglio l'aliquota in mancanza di interventi passerà dal 21 al 22%, un aumento che incontra il no deciso del PDL, ma Enrico Letta dice che questo aumento dell'IVA in realtà venne deciso quando c'era Berlusconi. Questa è proprio una imprecisione che lo stesso presidente Letta ha dovuto correggere in corso d'opera. Oggi sono gli stessi rappresentanti del governo Monti ad ammettere che quella decisione fu assunta dal governo Monti e non dal governo Berlusconi, quindi è improprio da parte di chiunque chiamare in causa il governo Berlusconi, ma non è questo ciò che interessa agli italiani. Quello che a mio avviso interessa agli italiani sono due cose. La prima è che questa cosa si faccia, e si faccia subito in modo netto, chiaro. Lei sa che in economia peggiore delle tasse c'è solo un'altra cosa, che è l'incertezza. Quando su una stessa misura un governo, un sistema legislativo nel suo complesso non dà chiarezza ai cittadini, ai consumatori, questo toglie al paese chiarezza su quello che sta accadendo. Primo punto. Secondo punto, ancora più decisivo, perché va al di là dell'IVA, che è una nostra richiesta, dell'IMU, che è una nostra richiesta, un tema più di fondo che sta soprattutto. Ci vuole una scossa fiscale visibile. Noi abbiamo bisogno di una scossa. Da questo punto di vista io condivido pienamente l'approccio che è stato manifestato in questi giorni, per esempio, dai professori Alesina e Giavazzi. Noi dobbiamo forzare sul 3%, ma non per tornare a spendere, ma per ridurre la pressione fiscale. Dobbiamo forzare i vincoli del 3% per tornare a crescere e per rimettere in movimento, diciamo così, la capacità del paese di correre. Però tornando all'IVA, visto che insomma entro una settimana il governo dovrà decidere, le coperture dove si trovano? Senta, allora, bloccare l'IVA per 6 mesi costa 2 miliardi, abolire l'IMU su prima casa e agricoltura costa 4 miliardi, 2 più 4 fa 6, il totale della spesa pubblica annuale è 800 miliardi, 6 miliardi stanno a 800 miliardi come lo 0,75%, è un 133esimo della torta della spesa pubblica italiana. Se PD, PDL, Scelta Civica, con una maggioranza parlamentare del 70%, tutti insieme, non siamo in grado di tagliare un 133esimo della spesa pubblica, lo 0,75 della spesa pubblica, io credo che sia giusto avere il disappunto di tutti i cittadini che ci diranno: ma cosa ci state a fare? E dunque agire sulla spesa pubblica per trovare le coperture, questa è l'opinione di Daniele Capezzone del PDL. Sentiamo sempre dalla Commissione Finanze della Camera il deputato del PD Marco Causi. È cruciale che non si faccia di questo tema un argomento di propaganda come se fossimo in una campagna elettorale che non finisce mai. Questo aumento dell'IVA era stato introdotto come clausola di salvaguardia in una delle manovre estive del governo Berlusconi, no? Ci ricordiamo che fra luglio e agosto del 2011 furono varate dal governo Berlusconi due manovre estive che peraltro poi risultarono inadeguate e insufficienti. Berlusconi si dovette dimettere e poi arrivò la nuova manovra di dicembre di Monti. Queste clausole di salvaguardia erano collegate all'obiettivo del pareggio di bilancio del 2013, anch'esso un obiettivo contrattato fra il marzo e l'agosto del 2011 dal governo allora in carica, e obiettivo di tutti cercare di evitare questi aumenti, per il semplice motivo che, come tra l'altro hanno già dimostrato gli impatti dell'aumento dal 20 al 21%, questi aumenti non solo sono deleteri per l'economia, ma aumentano anche l'evasione fiscale. La Corte dei Conti ci ha detto qualche giorno fa che una delle cause dell'aumento dell'evasione fiscale è anche l'aumento delle aliquote. Naturalmente però devono trovare una copertura. Cioè noi dobbiamo trovare altre fonti di copertura sostenibili e credibili, e quindi non si può poi una parte del governo, quindi il PDL, limitare soltanto a dire non vogliamo aumento dell'IVA, deve anche lei esercitarsi a capire con quali fonti di copertura si possono evitare questi aumenti. Ma si parla di 1 miliardo di euro che il governo avrebbe trovato per un rinvio di 3 mesi dell'IVA. Se le coperture sono solide ed efficaci, 3 mesi può essere un tempo giusto per capire, un po' come anche accadrà con l'IMU, come andare a un assetto stabile, anche vediamo un po' nei prossimi 3 mesi come evolve la situazione generale, sia internazionale, finanziaria, e sia interna sul piano dell'andamento della recessione. È contraria al ritocco dell'IVA anche la Lega. Per Maroni, se il governo non cancella l'imposta, deve andare a casa. Sentiamo. Il governo parla di 1 miliardo per i giovani, ben venga se ci fosse davvero. Parla di cancellare l'IMU e non l'ha fatta, parla di cancellare l'aumento dell'IVA e non l'ha fatto. Siamo sempre solo di fronte a buone intenzioni. Secondo me, se il governo non cancella l'IVA, l'aumento dell'IVA, deve fare solo una cosa, dimettersi, andare a casa. E siccome si sono impegnati a non alzare l'IVA, chiunque l'abbia messa, se non riescono a cancellare l'IVA, dimostrano evidentemente la propria incapacità e devono andare a casa. E infine il Movimento 5 Stelle che attacca il governo delle larghe intese, incapace a suo dire di trovare soluzioni. Giorgio Soria, il vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera. Sull'IVA si dimostra ancora l'incapacità sia del PD che del PDL, perché non ha senso che si facciano le battaglie quando poi hanno formato la larga intesa per governare insieme, e quindi dimostrano ancora una volta l'incapacità di non sapere gestire quelle che sono le emergenze italiane e anzi magari certe volte di rotare l'attenzione su altre tematiche quando invece siamo in una situazione pazzesca. Tant'è che il rinvio dell'IVA al 30 settembre è identico a quello che è stato fatto con l'IMU, ossia non si sanno dove prendere i soldi, o meglio non sanno dove loro andare a prendere i soldi, e quindi in un qualche modo vanno a rinviare un problema che è attuale, anzi è un problema che è ormai latente da qualche mese, che è quello del punto percentuale. Voglio ricordare che il punto percentuale sull'annualità, quindi sull'anno intero, equivale a circa 4 miliardi e questo rinvio equivale a 1 miliardo, quindi bisognerebbe chiedere dove vogliono andare a prendere i soldi, perché quello che si presuppone è che in un qualche modo vadano ancora a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. E intanto qualche vostro SMS. Antonio da Como: quello che interessa agli italiani è il lavoro e i tagli, ma questi buffoni non lo hanno capito. E poi invece sulla questione di Josefa Idem, cosa credeva la Idem? Che si dimetta, se è onesta si deve dimettere, come pure Berlusconi, dice un altro ascoltatore. Tutti a casa, dice ancora Antonio da Padova. E chiudiamo invece con una notizia che riguarda i ballottaggi per le amministrative nei 16 comuni siciliani chiamati al voto. Il candidato grillino a sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, è largamente in vantaggio con quasi il 70% contro il 30,2% del candidato di centrosinistra Giovanni Cosentino. L'affluenza in Sicilia è stata molto bassa, del 46,19% con 21 punti in meno rispetto al primo turno. E con questo è tutto, il prossimo appuntamento con la politica alla prova sempre domani alle 16:45. Un saluto e un buon pomeriggio da Alessandra Schepisi.